La settimana che seguì fu un incubo. Era prostrata dalla febbre e giorno e notte era torturata da fantasie orribili. A volte sognava il Crala Home in piedi accanto al suo letto, che la guardava come la prima volta sulla nave. Sul suo viso c'era la stessa espressione sarcastica e personificava tutte le forze schierate contro di lei. Lei strillava e allungava le mani per spingerlo via, ma non trovava che il vuoto. Parecchie volte al suo risveglio vide China su di lei con gli occhi pieni di ansia, Kun Ying Fan che le bagnava il viso con acqua e gelsomino. A poco la febbre calò e con essa i sogni. Dormiva a lungo e mangiava qualcosa e finalmente un giorno si svegliò con la testa perfettamente lucida e si trovò al fianco Kun Ying. Anna si allungò debolmente, prese la morbida mano marrone tra le sue e la carezzò con gratitudine. Kun Ying implorò: «Mi aiuti!» Kun Ying le lisciò i capelli, le diede un colpetto sulla guancia, come se Anna fosse una ragazzina, e acconsentì a fare quanto poteva. Ma supplicò Anna di essere paziente. Era impossibile. Per Anna l'ostinazione era allo stesso tempo un vizio e una virtù. Non poteva incontrare il Crala Home senza fargli pressione, dicendogli che la vita che conduceva le era insopportabile, anche se era grata per le manifestazioni di affetto e gentilezza che aveva ricevuto dalle donne dell'harem durante la malattia. Si rese conto che stava ottenendo qualcosa, non quello che voleva, ma qualcosa. In un paese in cui l'idea di noblesse oblige era sconosciuta e dove i potenti esigevano gli onori che erano loro dovuti, la sua insistenza su quello che riteneva un suo diritto stava probabilmente ottenendo risultati. Il Crala Home era cortese ma imperturbabile, non faceva promesse, ma lei aveva la sensazione che stesse lavorando in suo favore. Comunque non successe niente. Quando Anna si scaldava, il Crala Home sorrideva astutamente e svuotava le ceneri della pipa dicendo: «Sì, signore, se non le piace può vivere nel mercato del pesce, signore». Lei si irritava al suo sangue freddo e si ingegnava per trovare piccoli modi che lo facessero arrabbiare senza compromettere la sua dignità. Ma lui sopportava con una nonchalance che la irritava ancora di più perché non era voluta. Questa inutile lotta si protrasse per 2 mesi. Disperatamente lei si immerse nei suoi studi, lieta almeno di poter snobbare il Crala Home e la sua indifferenza. Ma anche questo non scalfì minimamente la sua superficie di granito. Lui sembrava ignorare completamente la sua esistenza. Poi, all'improvviso, un pomeriggio le fece visita, cosa che non era mai successa in precedenza. Si complimentò con lei per i progressi nella lingua e la sua magnanimità. Le disse che il re era stato molto irritato per come si era comportata al mercato del pesce e che non si poteva fare niente finché Sua Maestà non avesse superato la stizza. Poi aggiunse che le aveva trovato un'occupazione. Aveva deciso di dar vita a una scuola nel suo palazzo, dove lei avrebbe potuto insegnare finché non fosse arrivata la convocazione del re. «Grazie, infinite grazie», rispose Anna con un entusiasmo che lo sorprese. Alle donne siamesi non piace lavorare, amano il divertimento, amano dormire. Perché a lei non piace divertirsi? Lei gli assicurò che amava molto divertirsi quando era dell'umore giusto, ma che al momento non ne aveva voglia. Era stanca della vita pigra del palazzo e stufa del Siam nell'insieme. Lui accettò la sua sincerità con il suo caratteristico sorriso e con un divertito «Buongiorno, signore». La mattina successiva, 10 ragazzini siamesi e una ragazza, spinti da una governante dell'harem, entrarono nella sua stanza. Si inginocchiarono con grazia, solennemente alzarono le piccole mani nel saluto musulmano. La maggior parte di loro erano fratellastri e nipoti del Crala Home, altri erano dipendenti, scelti perché sembravano promettenti. La ragazza era una sorellastra. Anna, riconoscente, iniziò a lavorare. Era un conforto e una sana disciplina. Così passò giugno e iniziò luglio. Anna si rese conto col passare dei giorni che aveva rinunciato alla lotta impari con il re e che aveva abbandonato la speranza di avere una casa. Comunque, riconoscere la sconfitta non aveva portato in lei alcuna rassegnazione, era frustrata dalla sua incapacità di far rispettare il contratto e scrisse a Francis Cobb che forse sarebbe tornata a Singapore. Lui non fece pressione, ma le scrisse che stava facendo fare per Avis una miniatura che avrebbe tenuto da parte finché lei avesse preso una decisione. Lei era arrivata a Bangkok piena di speranze e di piani grandiosi, Dopo 2 anni difficili a Singapore, dalla morte di Leon aveva colto con gioia l'idea di un lavoro regolarmente pagato. Aveva desiderato iniziare una nuova vita perché l'ambiente familiare teneva aperte troppe ferite e soprattutto aveva desiderato lavorare duro. Amava insegnare. Si era immaginata di aiutare un sovrano illuminato a fondare una scuola modello che avrebbe dettato i criteri dell'istruzione in un paese che stava appena uscendo dal Medioevo. Forse aveva sognato che avrebbe insegnato a un futuro re e avrebbe plasmato la sua mente di bambino a desiderare un mondo migliore. Aveva lasciato Singapore con la convinzione di avere una missione da compiere così profonda da resistere alle obiezioni dei suoi amici, che consideravano l'avventura insensata e pericolosa. Era una donna sottile, quasi fragile in apparenza. Non sarebbe stata in grado di combattere con i fucili per liberare gli schiavi come negli Stati Uniti, ma poteva usare il sapere per lottare nell'angolo di mondo in cui si trovava. Adesso tutte le sue speranze erano andate in frantumi sul pavimento di 2 squallide stanze nel mercato del pesce di Bangkok e non riusciva a sollevarsi dall'apatia in cui era caduta. Ogni mattina doveva costringersi a trovare le energie per fare lezione, nonostante i bambini fossero aperti e capaci. Andare o restare aveva importanza. Poi una mattina, mentre le lezioni stavano per cominciare, Kun Yingfan entrò nella stanza di Anna senza essere annunciata. «Mem Cha», disse, «ho trovato una casa per lei». Anna balzò in piedi con tale gioia che il cuore quasi le scoppiò. Lady Fan sorrise alla sua faccia radiosa e la pregò di non aspettarsi troppo. «Ma è sul fiume e ha un giardinetto e può averla se desidera. Vuole andare a vederla ora?» Anna fu sorpresa di scoprire che riusciva ancora a essere felice. L'apatia e la depressione svanirono. Ringraziò Kun Ying per la sua gentilezza con un tale entusiasmo che la donna si mise a ridere, protestando che Anna non doveva ringraziarla finché non avesse saputo se aveva motivo di essere grata. Ma l'eccitazione di Anna non poteva essere raffreddata. Sollevò Louis dalla sua sedia e gli ricoprì il viso di baci finché lui si lamentò. Le lezioni finirono prima di iniziare. Anna si vestì in fretta per uscire e prese alcune cose da portare con sé. Un giovane fratello del Krala Home doveva accompagnarla alla nuova casa. «Vieni, bambino», disse Munchi in malese. «Andiamo anche noi. La casa deve essere un paradiso dal momento che il Gran Visir la concede alla Mem, che si delizia di onorare». Dal momento che la casa non era lontana dal palazzo, la piccola processione si avviò a piedi. Superarono parecchie viuzze finché arrivarono in una zona circondata da mura dove entrarono. A prima vista non sembrava granché. Il cortile era disseminato da macerie. Un magazzino sudicio occupava un lato del complesso. Sull'altro lato un muro con una porta bassa si apriva sul fiume. All'estremità opposta del cortile c'era la casa, all'ombra di parecchi alberi che si curvavano sul giardino, rendendolo quasi pittoresco. Era 1000 volte meglio del mercato del pesce. Quando entrarono in casa, tuttavia, il loro entusiasmo vacillò. La sporcizia dominava, i pavimenti erano coperti da stuoie marce, le pareti erano imbrattate da sputi di sangue. Monchi iniziò a imprecare a bassa voce in modo monotono e Anna non lo riprese perché esprimeva l'amaro disappunto che provavano tutti. Si rese conto che un tale sfogo implicava un pubblico e si girò a vedere a chi erano indirizzati i lamenti del vecchio persiano. Seduto sul pavimento c'era un musulmano che sembrava si fosse materializzato dal niente. Molte volte in passato, quando le cose andavano male, Anna e Louis avevano visto Monchi lamentarsi con un altro musulmano. La familiarità di questo dramma in una scena insolita riportò alla mente molti ricordi e scoppiarono a ridere. Sporca o no, la casa stava acquistando un aspetto familiare. Con rinnovato coraggio ripresero l'esplorazione. La casa aveva 9 stanze, tra cui una cucina e alcuni bagni. Alcune erano piacevoli e ariose. Aveva 2 piani e, secondo lo stile orientale, la cucina e i bagni erano separati dal corpo principale della casa da un cortile aperto sul cielo ma murato all'estremità. Qui c'erano i quartieri per la servitù. A parte lo sporco, per cui bastavano acqua e sapone, la casa era vivibile. Bibi e Boy erano ottimisti, tornarono di corsa nella stanza principale e misero fine ai lamenti di Monchi ordinandogli di mettere al lavoro il suo pubblico e qualche facchino cinese, se fosse riuscito a trovarne, per portare acqua con cui pulire. Lui protestò che non c'erano secchi, ma Anna gli diede alcuni dollari e lo mandò a comprarne. Con la rassegnazione filosofica del bravo musulmano, smise di discutere e si avviò con il nuovo amico al seguito. Luis, dal momento che aveva annunciato che avrebbe aiutato, venne infilato in una salopette, mentre Bibi venne rispedita a palazzo per raccogliere le loro cose. Quasi senza consultarsi, avevano deciso di rimanere. In quel breve attimo di tranquillità, Anna si sedette sull'unica sedia di casa per organizzarsi. Il fratello del Kralahome, che si era sistemato con indolenza nel cortile, entrò nella stanza e la fissò con interesse. Lei scosse la testa finché lui non tornò fuori. Poi, a passo di marcia, Anna entrò in una stanza interna passando da una porta rotta. Appese cappello e mantello a un chiodo arrugginito e si tolse l'abito da mezzo lutto. Aveva portato un vecchio grembiule che indossò, poi spalancò la porta e buttò fuori le stuoie. Dopo mesi di ozio era una gioia usare l'energia fisica. A tempo debito, Monchi e il nuovo amico tornarono con una mezza dozzina di secchi, ma senza facchini. Monchi aveva pensato bene di alleviare il suo dolore con del vino di Shiraz a buon mercato, quindi, tra i fumi dell'alcol, si sedette sugli scalini a rimpiangere disperatamente la sua bella casa di Singapore, ma Anna rifiutò di scoraggiarsi. «Alzati, Monchi», ordinò con insensibilità. «Vai a prendere Bibi e puoi portare letti e scatole mentre lei mi aiuta. Se sono troppo pesanti, fatti aiutare dagli schiavi del Kralahome. Muoviti! Forza adesso! Alzati!» Il vecchio la guardò con tristezza, si alzò incerto e si avviò piagnucolando. Mentre Anna, seccata, in piedi nel cortile, cercava di organizzarsi, arrivò la signora Hunter. Fu gentile e carina come sempre. Aveva saputo dal marito che Anna intendeva traslocare, aveva portato con sé una mezza dozzina di schiavi, secchi di pittura e rotoli di stuoie cinesi per il pavimento. In un'ora la casa era stata spazzata. Tre degli schiavi della signora Hunter stavano imbiancando le pareti, mentre gli altri fregavano il pavimento con mezze conchiglie di cocco. A metà pomeriggio la casa era immacolata. Furono stese le stuoie che avevano l'odore del fieno appena tagliato e vennero portati e sistemati i mobili. Non era molto per una casa così grande, ma c'erano un tavolo e due sedie e anche alcuni candelabri e molti libri. Anna pensò con piacere che erano usciti dalle scatole come vecchi amici. Nella camera da letto, sul lettino di lui, s'erano stese lenzuola bianche e zanzariere candide come neve appena caduta, erano pronte per essere abbassate. Sul tavolo accanto al letto, Anna mise una fotografia di Avis. Fu il tocco finale. Anna e Luis erano a casa. La signora Hunter sorrise quando la vide. Poi salutò e ripartì con i suoi schiavi, seguita dalla gratitudine di Anna e dalla promessa che sarebbe spesso andata a trovarla e avrebbe scritto per lei lettere in inglese per i suoi ragazzi che stavano per partire per l'Inghilterra. Mentre usciva, Bibi superò il cancello con una zuppa e altre ghiottonerie preparate con l'aiuto di un uomo di Bombay che in qualche modo aveva scovato. Tutto era tranquillo. Si sentiva solo il lambire del fiume contro la banchina e il rumore di qualche bambino che si tuffava in acqua e nuotava. «Boy? Dov'era Boy? Dov'era suo figlio?» Anna e Bibi lo trovarono addormentato in una stanza vuota, sporco, ma con un'espressione soddisfatta sul volto. All'improvviso il momento sembrò molto solenne. Sorrise alla sua immagine riflessa nello specchio e i ricordi affollarono la sua mente. Era di nuovo a casa. La parola stessa era come un organo che suonava una melodia perfetta. Non si rendeva conto perché la sua richiesta di una casa all'improvviso fosse stata soddisfatta. Ma il muro era crollato. Era entrata nella sua Gerico, scortata da una fanfara di trombe invisibili, e questo le bastava. Qualsiasi cosa l'aspettasse, adesso poteva affrontarla. Aveva una casa, il suo rifugio, casa. La parola continuava a riecheggiarle nella testa e affiorò nella memoria. Un altro posto in cui aveva conosciuto la stessa pace profonda. La casa di sua madre, sul cui grembo posava la testa quando era piccola guardandola negli occhi, che risplendevano sempre di una luce tranquilla in cui non c'era mai ira o durezza. L'ondata delle emozioni che le agitavano il petto la travolse, cadde sulle ginocchia vicino a Luis e lo abbracciò. Il piccolo si svegliò mentre lei gli riempiva il viso sudicio di baci senza capire perché La mamma aveva gli occhi pieni di lacrime e con passione prometteva che lui, anche lui, avrebbe avuto una casa e una madre da ricordare. «Ho fame!» la interruppe lui. 13. La scuola a palazzo. La mattina seguente Bibi fece trovare la colazione pronta ad Anne e a Louis non appena si furono lavati e vestiti. Era un lusso essere liberi dal trambusto della grande casa. Ma non fu loro permesso di finire senza interruzioni. Un risolino vacuo, unico rumore che non sembrasse allegro, annunciò una presenza in cortile. Non era altri che Gabriel del mercato del pesce, nella sua giacca rossa sdrucita con le mostrine gialle. Portava un ordine del re. La signora Leon Owens doveva presentarsi immediatamente a corte. Era giovedì, il giorno della settimana sacro al dio della saggezza, Brihaspati, e perciò adatto per l'inaugurazione ufficiale della scuola al grande palazzo. «Bene», disse Anna con una certa asprezza, «mi sembra che avrebbe potuto dirmelo prima». Aveva ancora la sensazione di essere una pedina su una scacchiera manovrata da invisibili giganti. Lo schema del gioco le sfuggiva, ma non aveva dubbi che esisteva. Niente poteva rovinare la prima colazione nella nuova casa, comunque. Lei e Boy indugiarono finché non ebbero più scuse. Allora si prepararono a seguire la guida. Boy abbracciò Bessie con ardore. Anna lasciò del denaro a Bibi per il cibo, il carbone per il braciere e l'attrezzatura per la cucina e le disse che qualcuno doveva sempre restare in casa. «Se vai tu al mercato, Bibi, Monchi deve rimanere a controllare la casa», la istruì mentre la salutava. La stessa barca, lunga, stretta e instabile che li aveva portati al mercato del pesce, li accolse ancora una volta. Quando arrivarono all'attracco, Gabriel affidò Anna e Louis ad alcune schiave che dovevano condurle al palazzo attraverso la porta che la gente comune chiamava la porta della conoscenza. Un gruppo di amazzoni, elegantemente vestite di verde e d'oro, li accompagnò all'ingresso dell'interno, dove altre schiave aspettavano per condurli al padiglione, in cui doveva tenersi la nuova scuola. Mentre questi entravano ad annunciare il loro arrivo, Anna guardò meravigliata le alte colonne dorate che raggiungevano il soffitto. Il misticismo del posto scese su di lei come un manto di tranquillità. Al cenno di una schiava, Anna prese Boy per mano e, non sapendo cosa ci si aspettava da lei né cosa aspettarsi, entrò un po' esitante nel tempio. Una gigantesca statua del Buddha dominava la grande sala. Al centro del pavimento a mosaico stava una lunga tavola finemente intarsiata, circondata da sedie dorate, anch'esse intarsiate. Erano presenti il re e la maggior parte delle nobili donne della corte con alcuni sacerdoti. All'ingresso di Anne e di suo figlio un fremito di eccitazione passò tra le signore riccamente vestite, ma i preti, nelle semplici tuniche gialle, a piedi nudi e con le teste rasate, continuarono la loro silenziosa contemplazione dell'infinito. Il re ricevette Anna e Louis molto gentilmente, senza alcun segno del cattivo umore dell'incontro precedente. Indicò due sedili che erano stati preparati per loro. Seguì un lungo silenzio, poi il re batté leggermente le mani e il fondo della sala si riempì di schiave. Poche parole del re e tutte le teste si piegarono in assenso mentre il gruppo si disperdeva. Quando ritornarono strisciando con sicurezza sul pavimento, portavano scatole di ardesia, matite, inchiostro, penne e il familiare Webster dalla copertina blu che spinsero sul tavolo riccamente intagliato. Entrarono altre donne, sempre strisciando, con candele che bruciavano e vasi di fiori di loto bianchi che sistemarono sul tavolo davanti a ogni sedia dorata. Tutto sembrava preparato fin nei minimi particolari. La formalità e la perfezione erano impressionanti. A un altro cenno del re i preti iniziarono a cantare. Durante la mezz'ora del servizio religioso Anna si guardò intorno. Di lato, davanti al Buddha, c'era un altare impreziosito dalle offerte più ricche e più curiose, frutto dell'abilità dell'orafo e del gioielliere, che lei avesse mai visto nei suoi viaggi in Estremo Oriente. Dietro c'era un palco dorato su cui sedeva il sacerdote più importante, un uomo vigoroso di circa 50 anni. Lo riconobbe come sua signoria Chao Kun Sa. L'aspetto anonimo della testa rasata e della tunica gialla non erano sufficienti a mascherare la forza dell'intelletto e della personalità per cui era noto. Anna aveva già sentito parlare molto di quest'uomo, che era stato un seguace del re durante i 27 anni che aveva passato in esilio e nel sacerdozio. Le era stato detto che Sua Maestà richiedeva la presenza del prete in ogni occasione importante. Vicino alla sedia del predicatore, su cui sedeva a gambe incrociate l'istruito abate, c'era il tronco di un vecchio albero stranamente intagliato con una immagine di fattura indiana. Brihaspati, il dio della mente e della saggezza. Anna si chiese, divertita, cosa pensasse l'imponente Buddha silenzioso sull'altare di questo intruso del pantheon indù. Quando il canto terminò, da un'orchestra invisibile un rullio annunciò l'ingresso dei principi e delle principesse che sarebbero stati gli allievi di Anna. Avanzarono in ordine di età, la prima era una bambina di circa 10 anni. Anna fu colpita dalla sua pelle vellutata, dalla delicatezza delle forme e dal luccichio pacato degli occhi. Il re la prese per mano con gentilezza e la presentò ad Anna semplicemente dicendo: «L'insegnante inglese, la principessa Yin Yawalak, la prima nata tra le donne». Il saluto della bambina fu tranquillo e controllato. Prendendo entrambe le mani di Anna tra le sue, si inchinò e se le portò alla fronte. Poi, a una parola del re, si ritirò al suo posto sulla destra. A mano, tutti i bambini vennero presentati ad Anna allo stesso modo e la salutarono, e le bambine anche. Mentre l'ultimo si allontanava verso il suo posto nella fila prostrata, la musica cessò. Il re allora parlò brevemente ai bambini e alle bambine, traducendo nel frattempo per Anna. «Cari figli, care figlie, ci piace che siate istruiti in inglese come nella vostra lingua. Ora, dal momento che questa è una scuola inglese, dovrete imparare i modi inglesi di salutare, di rivolgervi alle persone, di conversare e le buone maniere. Ognuno di voi sarà libero di sedere davanti a me nelle sedie quando verrò a ispezionare la scuola, a meno che naturalmente siate voi a non volerlo. Per questo non do ordini, ma vi ordino di studiare molto e di mettere a frutto quanto più potete la possibilità che vi viene offerta. È un privilegio che nessun altro bambino reale ha avuto prima d'ora e dovete saperne trarre vantaggio». Tutti i bambini si inchinarono, toccando con la fronte le mani piegate sul pavimento in segno di accettazione. Così finì la cerimonia e Sua Maestà si allontanò con i preti. Mentre Anna si chiedeva se doveva organizzare la scuola, arrivarono alcune schiave a portare via i bambini. Fu stupita di vedere che non solo i bambini più piccoli, ma anche quelli di 9 e 10 anni venivano sollevati e portati via di peso. Evidentemente non erano abituati a camminare nemmeno per piccoli percorsi. Le loro schiave e veicoli umani li trasportavano a braccia come neonati. «Bene», pensò Anna disgustata. Sembrava un'altra delle orribili manifestazioni della schiavitù dalla testa d'idra che regnava a palazzo. Si rese conto che per quel giorno la scuola era finita. Nessuno si preoccupò di informarla quando avrebbero avuto inizio le lezioni vere. «Quando mi vorrai, il re manderà ancora Gabriel», pensò scrollando le spalle, e si preparò a terminare il trasloco dalla residenza del Kralahom alla sua. Anna e Bibi passarono i giorni che seguirono a rendere la casa abitabile. Mentre le due donne compravano mobili, appendevano tende e quadri e sistemavano la cucina, Monshi lavoricchiava in cortile portando via la sporcizia che ancora vi era ammassata. Occasionalmente si interrompeva per portare in casa, perché Anna li controllasse, alcuni pezzi di pietra con iscrizioni thai o cambogiane o un intarsio su bassorilievo della mitologia induista. Una delle stanze del piano superiore guardava su una fila di case a schiera di tipo occidentale, rovinate dalle macchie e dall'usura di molte stagioni umide. Erano di proprietà di un musulmano dall'aspetto patriarcale, che vi immagazzinava zucchero nell'attesa che il prezzo aumentasse. Ogni pomeriggio costui faceva visita a Monshi. Il suo arrivo era il segnale per cui il persiano smetteva di portare carichi di macerie verso il fiume e si ritirava nella piccola stanza est che era stata adibita ai suoi studi e alle sue meditazioni. Lì i due musulmani discutevano solenni questioni del Corano e parlavano dei vicini. Non ci volle molto tempo a Monshi per imparare dal nuovo amico i nomi delle persone che abitavano lì, la loro posizione sociale e i loro mezzi. Lui passò attentamente tutte queste informazioni ad Anna. Era compiaciuto in modo infantile del fatto che si trovassero in una zona aristocratica, Molti vicini erano membri della potente famiglia di Bunnang, il cui capo era il Kralahom, o discendenti di Chau Tak, il re matto, che il nonno di Remon Kut aveva detronizzato perché sosteneva di essere una reincarnazione di Buddha. Quando Anna venne di nuovo convocata a palazzo, la famiglia era sistemata nella nuova casa. Bibi sapeva già che ora il macellaio cinese passava con la sua barchetta e quali donne con i grossi cappelli che remavano sul fiume vendevano i manghi migliori. Le chiamava e dalla riva del fiume contrattava con loro il prezzo come se lo avesse fatto per anni. Fu facile scivolare nella routine familiare. Al mattino, quando ci si svegliava, c'era il tè con la frutta, poi il bagno, la colazione e il lavoro. A mezzogiorno il pranzo, la siesta del pomeriggio e ancora lavoro, e alle 4 il tè seguito dallo studio e dalla cena, fino a quando per Boy arrivava il momento di andare a letto con storie e canzoni. Una settimana dopo il giorno dell'inaugurazione, la scuola iniziò. In questo secondo giovedì furono seguiti dalla riva del fiume fino ai cancelli del palazzo da una folla di bambini mezzi nudi. Lì Gabriel gli consegnò una schiava che ingannava l'attesa masticando betel accovacciata per terra. Quando raggiunsero il muro dell'interno, al comando della schiava il massiccio cancello venne aperto, quel tanto che bastava per lasciare entrare una persona alla volta, per poi venire subito richiuso alle loro spalle. Prima che il cancello, che si trovava dalla parte interna dello spesso muro, fosse aperto, le amazzoni di guardia li ispezionarono attentamente. Per parecchi minuti una delle guardie discusse se fosse o meno appropriato far entrare Boy. Una seconda guardia ribatté con un'osservazione brusca e al ragazzo venne dato il permesso di entrare. Numerose vecchie dame, che evidentemente erano di sentinella vicino alla porta in attesa dell'arrivo di Anna, volarono via in varie direzioni. Circa un'ora più tardi tornarono con 21 bambini del re. Ad Anna venne dato un elenco con i loro nomi scritti di pugno dal re. Erano così difficili che ci sarebbe voluto qualche tempo prima che fosse in grado di ricordarli. Principessa Ying Yawalak, Principessa Taksincha, Principessa Somawadi, Sua Altezza Reale Principe Chao Fa Chula Longkorn, l'erede al trono, Principessa Sri Patana, Principessa Prapat, Principessa Pak Pimonfan, Principessa Mania Faton, Sua Altezza Reale Principessa Chao Fa Chantaramonton, Principe Krita Pinihan, Principessa Srinak Sawat, Principe Kakanang Yukon, Principessa Kannika Kaeo, Principessa Suk Sawat, Principe Tawi Tawania Lap, Principe Tongkon Yai, Principe Kazemsan Sofa, Principe Komalat Loesan, Sua Altezza Reale Principe Chao Fa Chaturon Ratsami, Principe Unakan Ananda Norachai, Principe Kasem Sri Supayok. Il più giovane dei figli del re aveva 5 anni, il più grande 10. In breve vennero sistemati intorno a un lungo tavolo, ognuno con un Webster davanti aperto alla prima pagina. Anna mise Louis in fondo al tavolo mentre lei si sedeva a capotavola. La lezione iniziò, Anna pronunciò le lettere dell'alfabeto e i bambini le ripeterono dopo di lei. Il viso di Boy era serio per la responsabilità. In piedi su una sedia, il posto migliore per comandare la sua divisione, imitava la madre con grande fedeltà. Con la coda dell'occhio lei vedeva il dito del bambino indicare una per una le lettere dell'alfabeto, lettere che anche a lui non erano proprio familiari. Verso mezzogiorno furono accompagnate nella sala alcune giovani donne perché Anna insegnasse anche a loro, ma non le venne data alcuna lista di nomi. Le ricevette con un sorriso e annotò i loro nomi nel suo libro a mano che li ripetevano. Per qualche ragione questa semplice azione creò il panico. Anna non conosceva abbastanza la loro lingua per scoprirne il motivo, ma lasciò perdere il libretto e continuò a insegnare. A poco, col procedere della lezione, le concubine si tranquillizzarono iniziando con audacia a fare l'inventario della persona di Anna. Evidentemente l'insegnante era più interessante della lezione. Le toccarono i capelli e le tolsero qualche forcina per esaminarla. Una cercò di sistemarla sui suoi riccioli, ma cadde perché aveva i capelli corti e tutte si misero a ridere. Poi le toccarono il vestito e gli anelli. A un certo punto si accorse che due di loro si erano coricate sulla pancia e cercavano di sbirciarle sotto la donna. Per amor del cielo, cosa succede? Chiese seccata. Cosa volete sapere sui miei piedi? Da una che parlava malese scoprì che erano convinte che appartenesse a una specie completamente diversa dalla loro, con un corpo che si allargava verso il fondo e terminava con una estremità così vasta da riempire la ruota della sua gonna. Oh, per favore! Esclamò Anna con una risata e sollevò la sottana quel tanto che bastava per mostrare che aveva le gambe come le loro. Esclamarono in coro eccitate da quanto avevano appreso. Poi una schiava si acquattò davanti ad Anna e ne indicò il naso. Voleva sapere se era cresciuto a furia di tirarlo e anche se lo sistemava ogni mattina per tenerlo così. Anna la rassicurò che le dimensioni del suo naso non dipendevano né da esercizio né da un atto di volontà, ma erano solo il frutto della natura. Nel frattempo una delle ragazze si era messa il suo mantello e il cappello e girava intorno nel padiglione, imitando il modo di camminare dell'insegnante con un certo successo, per quanto si capiva dai gridolini deliziati. Un'altra si era infilata velo e guanti. I bambini smisero di studiare e scoppiarono a ridere fragorosamente. Le risate richiamarono dall'altro portico una governante severa. La sua espressione adirata fu sufficiente a ristabilire l'ordine. All'istante, cappello, mantello, velo, guanti vennero fatti volare da una parte all'altra della stanza e le giovani donne dell'areme e le loro schiave caddero sul pavimento ripetendo le lettere dell'alfabeto. Una giovane consorte, così semplice da sembrare poco più che una bambina, aveva evidentemente già studiato l'inglese, snobbò l'alfabeto e chiese di venire gettata nell'oceano delle parole. Ma quando Anna ve la lasciò navigare, diede ben presto segnali di difficoltà. Alcune concubine si allontanarono già stanche dalla fatica dell'apprendimento, ma all'estremità del tavolo una stava studiando con grande attenzione. Era una giovane donna pallida, abbattuta e spaesata. Si piegava sopra un principino, evidentemente suo figlio, e con gli occhi fissava le lettere che Luis le diceva. Anna l'aveva notata durante il trambusto che aveva interrotto la lezione. Era l'unica del gruppo che non aveva prestato attenzione alla confusione. Invece aveva tenuto gli occhi sul libro e adesso stava in disparte e da sola, concentrandosi sull'alfabeto con l'aiuto del suo piccolo insegnante. Quando arrivò la fine della lezione, ripeté tutto a Boy, il quale l'ascoltava seduto con gravità impressionante. Finì la lezione in modo corretto e lui dichiarò davvero una brava ragazza e con gentilezza le comunicò che poteva andare. Il suo viso si colorì per il piacere e quando si accorse che Anna la guardava con curiosità, quasi strisciò sotto il tavolo, come ad ammettere che non aveva diritto di trovarsi lì. Anna la osservò con maggiore attenzione e vide che non era giovane come le era parsa a prima vista e non era nemmeno graziosa, se non per gli occhi scuri e profondi e che ora scrutavano Anna con un'espressione allarmata. Anna decise che era prudente, oltre che gentile, fingere di non essersi accorta della presenza della donna e quindi incoraggiarla a tornare. Si mise il cappello, il velo e i guanti e prese la mano di Luis. Superarono la donna prostrata e lasciarono il palazzo prima che il re si svegliasse dal sonnellino pomeridiano. Anna immaginò che la concubina fosse in qualche modo caduta in disgrazia. Forse avrebbe dato il benvenuto a un nuovo mondo di conoscenze che avrebbe sostituito quello sfarzoso che le era crollato addosso.